Penso che la vera differenza tra uomini e donne stia nell'abbigliamento. So che può sembrare riduttivo, che esistono differenze sostanziali, ovviamente, però in effetti nella vita di tutti i giorni la cosa che mi colpisce di più è la maggiore libertà di scelta nel vestirsi che una donna ha rispetto a un uomo. Nel senso che di fatto, a meno che un uomo non sia, che so, Morgan o il mago Thelma, la sua divisa è più o meno uguale a quella di tutti gli altri uomini, no? Pantaloni e giacca, oppure jeans e camicia, un bel maglioncino. Punto. Anche i colori alla fine sono sempre quelli. Blu, grigio, nero. Se proprio sei un po' country, marrone e verde. Invece, una donna ogni giorno può sbizzarrirsi. Anche adesso, ad esempio, se guardo fuori dallo studio, attraverso il vetro, tutte le donne che vedo in redazione, tutte hanno addosso gonne, pantaloni, abiti, camicette, qualche maglia, maglione, insomma, tutta roba diversa. Per farmi capire, da piccolo per me era normale avere lo stesso maglione della best company di un mio compagno di classe. Ma se mia sorella aveva lo stesso cappotto di una sua amica, era la fine. Quello che voglio dire è, per quale motivo un uomo non si può mettere una bella gonna? Non sto pensando a quelle gonnelline ridicole che ci si mette per carnevale, che ti lasciano scoperti i polpacci e i peli da scimmia. Immagino una bella gonna, elegante, magari lunga, nera. Invece niente. Sempre sti pantaloni con lo stesso taglio, la stessa riga sul davanti. E poi c'è sta roba del tacco. Le scarpe col tacco sono un'invenzione meravigliosa. Non ho idea di chi le abbia inventate, eh? Cioè chi per la prima volta abbia pensato di sollevare la parte posteriore di un piede. Il tacco è una magia, perché le scarpe col tacco non solo alzano la statura, ma proprio cambiano la postura. Cioè, a meno che una donna non sia completamente impedita, appena si infila i tacchi, il suo aspetto cambia.